Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In Spagna Dolores Redondo è una scrittrice decisamente famosa. La sua trilogia thriller ha avuto un certo successo, insomma oltre 700.000 le copie vendute. Ora il primo volume di questa trilogia è arrivato anche in Italia. Si intitola Il guardiano invisibile, pubblicato da Salani con la traduzione di Andrea Carlo Cappi. È ambientato in un piccolo paese al confine fra la Navarra e i Paesi Baschi, un paese che si chiama Elizondo. Alcune ragazzine, questa brevemente la trama, vengono uccise e il killer ha un modo particolare di firmare i suoi delitti. Praticamente rade il pube di queste ragazze e ci mette sopra un dolcetto tipico del luogo, il ciancigorri. In più, sui corpi delle vittime vengono ritrovati dei peli di animali. A indagare è Amaia Salazar, capo della squadra omicidi della Polizia Foral de Navarra, che deve appunto occuparsi del caso. Lei è nata e cresciuta ad Elizondo. Questo è un romanzo che alterna la trama thriller con flashback sulla vita dell'ispettrice, sul suo passato e sulla sua famiglia, che quindi rendono il romanzo accessibile anche a chi domama, diciamo, i thriller in senso stretto. E siamo stati proprio con la scrittrice, con Dolores Redondo, sui luoghi dove sono ambientati i suoi thriller. Ed ecco come l'autrice ci ha descritto la sua protagonista seriale, questa ispettrice, e come ci ha parlato di questi luoghi. Amaia Salazar es muchas mujeres. Tiene cosas que admiro. De las mujeres en mi alrededor. Amaia Salazar è l'insieme di molte donne insieme. Ha caratteristiche che ammiro nelle donne che mi stanno intorno. Lei non è perfetta, è lontana dal profilo normale del detective, perché è piena di dubbi. A me piacciono le donne che si pongono dei dubbi. Mi piace che lei non sia sempre sicura di tutto. Ci sono due profili dell'ispettore. Uno è autodistruttivo, non ha famiglia, è alcolizzato, solitario, e l'altro è il super poliziotto che fa tutto bene. Lei non è né l'uno né l'altro. Amaia è una donna molto legata alla sua famiglia e al suo luogo di nascita. Nonostante ciò, non torna a casa da molto tempo e deve tornare proprio perché si stanno commettendo crimini nel suo paese. È una donna molto professionale, abituata a vivere in una grande città, con una grande esperienza professionale e che dovrà reinserirsi e riabituarsi a una realtà isolata, quasi magica, che caratterizza il suo paese natale. Tutto quando si enfrenta a una realtà magica, differente, che sigue molto viva in questo luogo. In genere nei thriller, appunto, gli ispettori, le ispettrici sono sempre personaggi un po' borderline, appunto si ubriacano dalla vita sentimentale strana, insomma, tormentata. Invece lei ha un bellissimo rapporto d'amore con suo marito, e questo è insolito per un personaggio, appunto, di un thriller. Così come tu racconti anche delle parti, dei flashback della famiglia che gira intorno a lei, le sorelle, insomma gli altri parenti, quindi è qualcosa di diverso dal classico ispettore. Sé que es insólito, pero sin embargo para mí se corresponde más con la realidad de las mujeres che oggi in dia trabaja nella polizia. È vero che è un personaggio insolito per essere un ispettore, però secondo me corrisponde di più alla realtà delle donne che oggi lavorano nella polizia. Eccellenti professioniste che uniscono la vita familiare alla carriera. D'altra parte è quello che succede nella maggior parte delle professioni. È lo stesso che tu sia giornalista o scrittrice come me. Anche io, per esempio, sono madre, moglie e mi occupo di quelle cose che alla fine sono ciò che ci tiene con i piedi per terra e sono proprio quelle cose che ci aiutano a mantenere l'equilibrio per poter lavorare. L'equilibrio reale per poter lavorare. Questa trilogia in Spagna ha avuto un grandissimo successo, più di 700.000 copie vendute. Secondo me uno dei segreti del successo è proprio questo mescolare il thriller con la vita familiare e normale di questa donna. Hai tu anche la stessa impressione nei confronti del pubblico spagnolo, che sicuramente conosci meglio di me? No es casual llegar a mezclar esto, no ha sido Come toccare per casualità le tecle di un piano, sta razonato. Non è stato un caso unire questi due aspetti. È come quando si suona il pianoforte. Si toccano molti tasti insieme, ma non a caso. È una scelta ragionata. Io per prima arrivo da una famiglia matriarcale. Tutti gli uomini della mia famiglia sono stati marinai e di conseguenza le donne hanno vissuto per buona parte da sole, come vedove, anche se i mariti c'erano. Non è una questione di lotta femminista, è la vita che ha imposto alle donne la necessità di prendere decisioni, di essere indipendenti, di gestire i soldi. E gli uomini non si sono mai sentiti fuori luogo per non aver preso parte a queste decisioni. Gli uomini delle famiglie matriarcali si sentono sicuri, non sentono minacciata la loro mascolinità. Non sentono amenazata su mascolinità. Venendo proprio alla trama, insomma, all'aspetto thriller giallo del romanzo, c'è qualcuno, potenzialmente un serial killer, che uccide delle ragazzine molto giovani e ha un modus operandi sempre simile. Fra i particolari è che rade il pube delle sue vittime e lascia al suo posto un dolcetto, un pasticcino tipico della Navarra. Come ti è venuta questa idea? Dentro della parafernalia che io tenia che idear para que l'assassino espressara nella distorsione criminale che io dovevo trasmettere attraverso le intenzioni dell'assassino, ho incluso questi dolcetti che sono prodotti tradizionali e che quasi non si producono più perché si facevano in casa. Li ho scelti apposta perché rappresentano qualcosa di tradizionale, perché evocano i valori tradizionali, perché l'assassino nel mio romanzo, con la sua firma sulle vittime, rappresenta un desiderio di ritorno alla purezza. È un assassino che fa una cerimonia di purificazione. Lui sceglie ragazzine che stanno entrando nell'adolescenza e le fa tornare simbolicamente all'infanzia, alla purezza, al passato. E la regressa alla infanzia, la regressa alla purezza, al passato. Un'altra caratteristica è che sul corpo di queste ragazzine vengono trovati dei peli che non sono umani, sono dei peli di animali, non vengono rintracciate tracce umane. E qui tu hai recuperato una vecchia tradizione di questa zona della Navarra dove hai ambientato appunto i tuoi romanzi. Che tradizione è? È la tradizione del Vasahaun. Il Vasahaun è una creatura della mitologia che evoca il potere del bosco. È la tradizione del Vasahaun, una creatura della mitologia che evoca il potere del bosco. Era un ominide, un tipo di uomo gigante, alto 2 metri, ricoperto di peli, che viveva nei boschi proteggendo l'equilibrio tra la vita e la morte e tra l'uomo e la natura. Devo dire che nel racconto non pretendo che ci sia una creatura magica, né tantomeno che lo sia l'assassino, ma che la profanazione della bellezza causata da questi crimini che avvengono nei boschi potrebbe risvegliare le forze più oscure della natura. Potrebbe despertar las más oscuras fuerzas de la naturaleza. Noi siamo qui a Elizondo, il paese appunto dove è ambientato questo thriller. Abbiamo visitato anche i luoghi che tu descrivi molto precisamente nel tuo romanzo. I cittadini di questo piccolo borgo come hanno reagito al successo del tuo romanzo? Insomma, sono stati contenti o sono spaventati dall'idea di essere così assimilati a un luogo dove avvengono delitti efferati? Quando io terminé di scrivere il libro, il primo libro, entonces me pregunté qué va a pasar ahora, cómo la gente va a interpretar esto. Quando ho finito di scrivere il primo libro, mi sono chiesta come la gente lo avrebbe interpretato e me lo chiedevo sia per gli abitanti di Elizondo sia per la polizia, perché nel mio libro i poliziotti spesso non corrispondono all'immagine che di solito si ha di loro. Però ho iniziato a farmi queste domande solo dopo aver scritto il libro. Sono molto felice perché molte persone, dopo aver letto il libro, hanno cominciato a venire in questo paesino cercando i luoghi del romanzo, la casa della zia, il commissariato, la pasticceria. E questo ha portato molti benefici a un paese al quale sono affezionata. Dopo pochi mesi che è stato pubblicato il romanzo, la Polizia di Navarra mi ha dato un riconoscimento per l'immagine nazionale e internazionale che avevo trasmesso di loro attraverso il mio libro. E sono stata molto contenta. Che si supponeva che è molto beneficiosa per loro, también estoy muy contenta. Nel romanzo ogni tanto ci sono delle digressioni storiche, no? Sul passato della protagonista, sulla sua vita in famiglia, il rapporto con le sorelle. Apparentemente si interrompe, come dire, la trama del thriller per andare su questi focus. Perché hai deciso di fare queste digressioni? No puedo concebir como mujer procedente de un matriarcado, no puedo concebir la vida. Non posso concepire la vita senza l'influenza della famiglia, nel bene e nel male. La famiglia matriarcale rinforza moltissimo le donne. Le donne di queste famiglie sono molto forti, ma nello stesso modo in cui ti proteggono, invadono molto la tua vita, a volte ferocemente. También se inmiscuyen en tu vida de una manera feroz. E questa era Dolores Redondo, ora in libreria in Italia con il primo volume di una trilogia thriller, Il Guardiano Invisibile, pubblicato da Salani. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Il Cacciatore di Libri. Ombre de muri, muri de maine, donde ne vegni, dove le canne. Denci tu du vali, nascemo strani, e annetana punto cotelo agu. Veniamo ora a un altro romanzo, si intitola L'ultima settimana di settembre, scritto dal genovese Lorenzo Licalzi, pubblicato da Rizzoli. È un'avventura umana on the road, cioè un uomo di 80 anni, Pietro Rinaldi, scrittore che però non pubblica più ormai da 20 anni, il nipote quindicenne Diego, con il quale insomma il nonno non ha mai avuto un grande rapporto. I due sono quasi costretti insomma dal caso a fare un viaggio in macchina da Genova a Roma, portandosi dietro anche il cane. È un viaggio dove accadranno cose divertenti, ma insomma ci saranno anche spunti per riflettere sulla vita. Marta Cagnola ha incontrato Lorenzo Licalzi a Genova, appunto. Ecco che cosa si sono raccontati. Beh, mi interessava parlare di un rapporto che potesse essere un rapporto tra due estremi. Vale a dire un rapporto tra un nonno e un ragazzino, due mondi completamente diversi. E raccontare la storia quindi di quest'uomo misantropo che si sta arrendendo alla vita e in qualche modo, grazie all'incontro, in pratica un incontro nuovo che fa con questo nipote col quale non aveva alcun rapporto, in qualche modo riesce a provare, se non altro, a rinascere, perché in teoria, solamente in teoria e spero anche in pratica, si può anche rinascere a 80 anni. È la storia di un viaggio e la storia di un cambiamento. In cosa questo rapporto con un nipote così giovane cambia un uomo di 80 anni? Appunto, noi pensiamo che a 80 anni non si possa più cambiare. Beh, anch'io un po' lo penso, e forse questo romanzo è stato proprio scritto, ho voluto scriverlo per smentirmi in qualche modo. Intanto il personaggio è un personaggio particolare, ha 80 anni, come dicevo, è uno scrittore che però è 20 anni che non pubblica più. E il romanzo inizia nel giorno in cui lui sta impacchettando il suo suicidio. Ha già in pratica le sue belle pastiglie davanti, ha iniziato addirittura a prendere le prime tre di Tavor giusto per vedere che effetto gli fanno, accompagnandole con del prosecco. Lui dice meglio col vino che con l'acqua suicidarsi, e proprio in quel momento, quando sta già comunque iniziando la trafila del suicidio, ma gli capita sto nipotino che frequenta rarissimamente, invece è costretto, diciamo così, ad accompagnarlo a Roma. Questo nipotino, che ricorda bene invece il periodo in cui il nonno era un'altra persona, ed era un'altra persona quando la moglie, Sara, era ancora viva. Ora lui è vedovo da 7 anni, e questa è stata la solitudine, ha dato il colpo di grazia a quest'uomo. E ricorda che in quegli anni con la nonna e il nonno andavano sempre in giro con questa Citroën Decap. Lui era un amante di questa macchina, non so se te la ricordi, quelle Citroën molto lunghe, da noi la Citroën Pallas, che veniva anche definita lo squalo decappottabile. Lui era 7 anni che non la tirava più fuori dal dal garage. E quindi inizia, per ricollegarmi alla tua domanda iniziale, nonno, nipote, mi è sembrato che di fare incontrare queste due età, lo dico anche nelle vecchie domande, cosa c'è di autobiografico, ovviamente io non sono, fortunatamente ancora non ho l'età per essere un nonno, però ho avuto ovviamente un nonno e mi sono accorto che il momento più significativo del nostro rapporto, peraltro molto simile a quello del nipotino col nonno, è stato proprio in quell'età, nella mia preadolescenza, nell'adolescenza, perché insomma, soprattutto se un nonno è abbastanza, diciamo, di personalità, è difficile che abbia un rapporto col nipotino molto piccolo. Questi rapporti si risolvono tutti nelle solite cose: il nonnino, vai a dargli il bacino e lo prendi in braccio, lo fai un po' giocare ai parchi, eccetera eccetera. Mentre c'è un momento nella vita in cui il nipote è abbastanza grande ed è anche abbastanza malleabile, o comunque incomincia ad affacciarsi alla vita realmente, e il nonno non è ancora così vecchio. Quindi secondo me l'età in cui il nonno può dare il massimo di se stesso, se vuole darlo, e il nipotino può apprendere il massimo, è proprio questo incontro. Mi è capitato più volte ovviamente di incontrare cantautori che scrittori, però io spesso ai genovesi ho la tentazione di chiedere: ma c'è qualcosa in particolare nell'essere liguri, in particolare genovesi, nell'approccio alla realtà? Beh sì, io credo che come in tutte le storie ci siano delle cose che condizionano il carattere delle persone. Noi a Genova siamo chiusi dietro e siamo aperti davanti, ma negli anni questa apertura ha provocato un'infinità di, diciamo così, aggressioni, no? E la nostra forza è stata proprio però nel mare. Questo fatto credo che goccia su goccia abbia modificato il carattere dei genovesi, che li fa essere chiusi perché dietro a noi le montagne, e li fa essere aperti nel momento in cui si accorgono che l'aggressione, tra virgolette, che arriva dal mare non è un'aggressione. E quindi viene fuori questo carattere incredibile che hanno i genovesi, il carattere del non lasciarsi andare, delle poche parole, dell'essere chiusi, ma poi di esprimere, come nella scuola dei cantautori genovesi, di cui abbiamo il massimo esponente in Fabrizio De André, ma poi ce ne sono tanti. Riescono a dare delle emozioni, a descrivere delle situazioni, nel mio piccolissimo anche io, riescono a essere, nel momento in cui entrano e riescono a esprimere veramente quello che possono, hanno una forza, un impatto emotivo veramente difficile da trovare in altri popoli. Torniamo alla storia del nonno e del nipote. Fanno degli incontri nella loro avventura sull'Aurelia? Sì, perché questo libro voleva, pur essendo un libro che ha delle caratteristiche sicuramente tragiche, sia per la mia cifra letteraria, per il mio stile, in quasi tutti i miei romanzi io non rinuncio mai a cercare laddove è credibile, dove si possa inserire l'umorismo, l'ironia. Allora, quest'uomo, come vi dicevo, è un uomo particolare, questo scrittore misantropo, e gli stanno su qualsiasi cosa, quelli che ballano con le cioè dalle cose più demenziali, è talmente misantropo che ormai non sopporta più nessuno. E ahimè, forse l'unico scrittore nel campo letterario italiano, gli stanno sul anche i lettori, certi tipi di lettori. Ora cosa succede? Succede una cosa abbastanza imprevista, che sono dalle parti di Cecina e c'è un autostopista. Lui, l'autostopista, forse per lui lo metterebbe sotto, ma invece il nipotino gli chiede: dai nonno, prendiamolo su. A malincuore il nonno prende questo autostopista e cominciano a fare questo viaggio. Succede che il ragazzino a un certo punto, prima gli dice sempre lui, mio nonno, a un certo punto gli dice Pietro. Allora l'autostoppista dice: ma Pietro di Genova, ma come, è proprio come il mio scrittore preferito, lo conosce? E lui dice subito: no, non lo conosco. È un metodo che lui ha, perché lui non sopporta gli lettori che gli fanno le domande. Infatti lui dice: o dice così o dice che è suo cugino. E quindi poi questo qua, una volta che scopre che è Pietro Rinaldi, e incomincia a fargli tutte le domande che lui non sopporta: quando scriverà il prossimo, come mai non scrive più, quando scriveva il prossimo, avrebbe scritto il prossimo romanzo, insomma. E quindi è molto ironica, è molto divertente, perché c'è questo continuo dialogo tra lo scrittore e il lettore, che è un po' paradossale, ma che esprime un po' nell'estremizzazione totale il rapporto che ci può essere tra il lettore e lo scrittore. Per tornare all'ironia e al senso del divertimento, c'è una cosa molto bella. Maurizio Crozza ha detto che in te, in Lorenzo Licalzi, ritrova un po' Nick Hornby e un po' Stefano Benni. Sì, Sì, no, no, assolutamente. Bello. Sì, bellissimo. Beh, tanto Maurizio è un amico, ci conosciamo, perché non per motivi di lavoro, anche qualcosina insieme, ma soprattutto perché frequentiamo lo stesso fruttivendolo biologico e quindi ci si conosceva. Però questa frase lui l'ha scritta e l'ha detta senza che io gliel'avessi richiesta. E ricordo che quando lesse il privilegio di essere un guru, mi chiamò dalla Sardegna, voleva fare essere lui il protagonista di questo eventuale film che sarebbe stato fatto. E insomma, c'è un bel rapporto, lui poi è eccezionale e credo che ci abbia azzeccato abbastanza, nel senso che io sono sempre in bilico appunto tra l'umorismo e invece l'impatto, diciamo così, emotivo. Hai detto film, da Io No era stato tratto il film con Simona Rizzo e Ricky Tognazzi. Sì. Anche l'ultima settimana di settembre potrebbe essere un bel road movie. Assolutamente sì, direi proprio che è quasi una sceneggiatura questo, me l'hanno già detto alcuni. È un film che secondo me potrebbe venire molto bene, ma intanto ha un limite, che non ci sono belle donne, per esempio. C'è la possibilità, nel cinema qualcuna serve, ci molto, serve molto. Ti devo fare la domanda della pessima cinematografara, che è la domanda inevitabile: chi ti... Un attore, a parte che secondo me gli attori anziani farebbero a botte per diventare Pietro Rinaldi, perché un ruolo così per un attore di una certa età non c'è. Guarda, io allora ti posso dire, un attore che, ahimè, forse non che sia troppo vecchio, ma deve essere molto stanco in questo momento, però secondo me caratterialmente è Paolo Villaggio. Sì. Sarebbe il gran ritorno di Paolo Villaggio al cinema ed è lui. E questo era Lorenzo Licalzi, autore di L'ultima settimana di settembre, pubblicato da Rizzoli. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che per essere sempre aggiornati potete seguirmi su Twitter e come sempre potete scaricare i podcast su radio24.it. Grazie in regia a Paolo Corleoni, una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.